Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Già ne ha parlato chiaramente Oscar Giannino fino a poco fa. Torneremo anche noi sul tema della posizione europea sui migranti dopo la posizione italiana, ma non solo sul fronte politico e sociale, anche sul fronte economico. Perché? Perché si integra con un altro caso. E mi riferisco alla possibilità che l'Italia abbia l'agenzia, che il Milano come Italia abbia l'agenzia del farmaco. Perché lo dico? Perché il doppio fronte è tutto europeo, nel senso che da un lato, come scrive il Sole 24 Ore, Milano rischia di essere superata. L'agenzia europea del farmaco è un'agenzia che sta a Londra e deve essere trasferita da Londra, come l'EBA, come l'autorità bancaria europea, in altre sedi. Ci sono vari paesi in lizza. È importantissimo perché sviluppa un giro d'affari, oltre che avere un ruolo simbolico molto importante. Solo a Londra garantisce 400 presenze, 400 posti letto negli alberghi ogni giorno, perché è l'agenzia che regola il mondo farmacologico europeo. E dicevo, spunta con forza la candidatura di Bratislava, capitale della Slovacchia, a 50 km da Vienna, e più che altro è l'asse Vienna-Bratislava e Berlino-Vienna. Devo dire con un'ingordigia, se così possiamo definirla, tedesca, perché già l'EBA, l'autorità bancaria europea, si ritiene che dovrebbe andare a Francoforte, dove a Francoforte c'è già la Banca Centrale Europea. E il doppio fronte fa dire sostanzialmente, lo scrive anche Adriana Ceretelli, attenzione, l'Italia dovrebbe alzare un po' la voce su questo, fronte migranti e fronte agenzia del farmaco. Ancora, per quello che riguarda invece gli altri temi della giornata, riprenderemo il tema banche venete, perché oggi di nuovo sono intervenute in primo luogo le autorità europee sul tema banche venete. Dombrovskis ha detto l'onere, che è il vicepresidente della Commissione europea, l'onere è considerevole per i contribuenti italiani. Gli azionisti e gli obbligazionisti comunque subordinati hanno contribuito con 5 miliardi e 200 milioni di euro. È stata innanzitutto una decisione delle autorità italiane, che potevano scegliere se limitarsi al minimo richiesto dalle regole europee sugli aiuti di Stato o se ricorrere a un burden sharing più spinto, quindi a una compensazione più spinta per gli obbligazionisti. Fiducioso il ministro Padoan sulle banche venete, fiducioso che il Parlamento voterà il decreto. Nel frattempo, a proposito di Parlamento, il DDL concorrenza è passato alla Camera, adesso torna al Senato con 5 modifiche introdotte, ossia rispetto al testo approvato inizialmente al Senato. Le prime 4 sono arrivate in Commissione. Per quanto riguarda il passaggio al mercato libero dell'energia fissato al 1 luglio 2019, a seguito di alcune correzioni richieste in questo caso anche da Forza Italia, risultano cancellate le aste per i clienti tutelati che a quella data non avranno ancora scelto un nuovo fornitore. E poi torna la possibilità di rinnovo tacito per le polizze danni non RC auto, l'abbiamo spiegato ieri, e via anche i paletti introdotti dal Senato nelle chiamate relative alle offerte commerciali, quindi vincoli, e poi vincoli più restrittivi per le società di odontoiatria in termini di abilitazione dei componenti. Tra l'altro scompare un grande assente, più volte annunciata invece poi scomparsa, sia la norma antiscorrerie, quella che aveva annunciato il ministro Calenda dopo l'operazione di Vivendi su Mediaset, è volta alla tutela delle quotate italiane, è pronta, ha detto il ministro Calenda, ma deve trovare il veicolo giusto, cioè nel DDL concorrenza non era evidentemente quello il suo ruolo. E scompare anche la norma salva Flixbus, cioè contro lo stop alla società tedesca di trasporti su autobus low cost, non c'è più traccia anche di quella. Passiamo ai mercati finanziari. E così iniziamo anche le altre notizie in breve. Mercati finanziari oggi negativi, non solo a Milano, meglio, Milano perde l'1,40%, però Parigi fa meno 1,70%, Francoforte meno 1,60%, Londra meno 0,20%, e Dow Jones meno 0,28%. Di positivo a Milano c'è il Banco BPM più 3,90%, UbiBanca più 2,5%, Tenaris più 1,50%. Invece i cali sono abbastanza insistenti su molti titoli. Salvatore Ferragamo meno 3,80, Case New Holland meno 3,5, Exor meno 3,20, Fiat Chrysler meno 3,20, Brembo meno 3 come Boots Unicem, Moncler meno 2,80 come Terna, Ferrari ed Enel, il 2,5 lo perde Leonardo e Banca Generali ed anche Steamicro Electronics. Mercati quindi deboli, c'è una componente anche di Dow Jones. Però devo dire che le borse europee sono partite, hanno peggiorato soprattutto dopo l'avvio di Wall Street. Tra l'altro ci si interroga ancora sulle prossime mosse della Federal Reserve e della Banca Centrale Europea. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta di Focus Economia sul pagina Facebook e sul sito sempre di Radio 24. E visto che accennavamo alle banche anche americane, la Federal Reserve ha promosso tutte e 34 le maggiori banche americane dopo gli stress test e ha aperto così la strada alla distribuzione di 100 miliardi di dollari agli azionisti delle sei banche più grandi. Secondo le stime appunto di RBC Capital, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan e Wells Fargo, e verranno restituiti agli azionisti fra i 95 e i 97 miliardi di dollari nei prossimi 4 trimestri, il 50% in più di quello, sono chiaramente dividendi, di quanto fatto l'anno scorso. L'economia americana invece continua a dare segnali contrastanti, che prima c'era stato un buon dato, poi una revisione più bassa, adesso il PIL americano viene di nuovo rivisto nei primi tre mesi con una crescita oltre l'attesa all'1,4%. Ancora qualche polemicuccia, analisi sul tema sull'intervento di Mario Draghi. Il Financial Times scrive la fine del cheap money, quindi del quantitative easing, del denaro facile, del denaro a basso costo. Lascia i banchieri centrali persi con le parole, dice che non si era capito, si è creata confusione nell'atteggiamento sia di Draghi che di Carney, dei governatori Carney e Draghi. Faticano a chiarire quando e come avverrà l'uscita dallo stimolo fiscale che è una traduzione inglese, dallo stimolo monetario in realtà. E ancora la Banca Centrale Europea ha dovuto passare l'intera giornata di ieri per spiegare il suo significato. In realtà oggi è intervenuto anche Hans Weidmann, membro della BCE e soprattutto presidente della Bundesbank, nonché forte papabile alla successione di Mario Draghi, dicendo che la politica monetaria espansiva, quella dei tassi bassi e dello stampaggio di moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato, è appropriata. Diverse invece sono le opinioni su quale sia il giusto grado, quindi quanto debba andare avanti. Per esempio Weidmann ha detto che lui è sempre stato scettico sull'acquisto di titoli di Stato. In Germania nel frattempo l'inflazione sale a sorpresa all'1,5%, scende in Spagna all'1,5%, abbiamo visto che ieri era scesa anche in Italia, quindi i dati sull'inflazione sono ancora molto contrastanti e diversi e variegati. E quello che invece sta crescendo in tutta Europa, Italia compresa, è il sentimento, quello che si chiama sentiment, le agenzie traducono ormai tutto l'inglese in inglesismi, sentimenti economici, sentimenti in italiano sono un'altra cosa. E lo dico anche con massimo rispetto alle agenzie di stampa, così come tradurre la BCE ha speso la giornata a spiegarsi, in Italia non sarebbe la Banca Centrale Europea, ha passato la giornata a spiegarsi. To spend è un inglesismo, sentiment è un sentimento economico, non so, è quello tra marito e moglie quando parlano di soldi, non lo so. Allora, quello che è la fiducia e quindi l'orientamento dei consumatori è ai massimi dal 2007, il clima di consumatori e imprese in tutta l'area europea 19 è salita la fiducia anche da parte industriale oltre che da parte consumatori ed è ai massimi come indicatore complessivo, si chiama ESI, ai massimi dall'agosto 2007, sempre riferito all'Unione Europea a 19. Allora, ancora una notizia in breve, che qui invece andiamo sul... due notizie in breve. Una è la dichiarazione del ministro Padoan sul Monte dei Paschi di Siena, poi ascolteremo quella sulle banche venete invece, perché molti ascoltatori ci chiedono, ma qua si parla delle venete, si parla delle quattro banche, ma del Monte dei Paschi si è persa traccia. Allora, il ministro Padoan ha detto che il caso sarà risolto nei prossimi giorni e non vedo nel mondo bancario altri casi come quelli delle banche venete. Monte dei Paschi sarà risolto, mi auguro, nei prossimi giorni e in un modo assolutamente trasparente e chiaro, in pieno accordo con le istituzioni. Non vedo altri casi come quello delle venete. Allora, ancora, dicevo, un'altra notizia. L'IRPEF ha divorziato dall'IMU Tasi. Addio versamenti nello stesso giorno. Insomma, che succede? Domani, per la prima volta, dopo le modifiche del calendario fiscale introdotte lo scorso dicembre, il fisco chiama la cassa e i contribuenti per pagare le principali imposte erariali, IRPEF, IRAP, IRES e IMU. Ma è un appuntamento, è importante anche per chi versa la cedolare secca sugli affitti, per le giovani partite IVA che hanno scelto il regime dei minimi con quello che porta all'imposta sostitutiva del 5%, o per quelli che pagano il forfè del 15%. Secondo i calcoli elaborati oggi dal Sole 24 Ore, nel complesso la scadenza di domani trasferirà dal portafoglio dei contribuenti, in gran parte in questo caso imprese, alle casse dell'erario 61 miliardi e 100 milioni di euro. Qualcuno mi chiede anche del decreto concorrenza, perché è un autista di Flixibus. Allora, è scomparsa la norma sia antiscorrerie, ma anche la norma che salva Flixibus, che doveva, dopo lo stop alla società tedesca di trasporti su autobus low cost, è saltata. Doveva passare prima per il DL concorrenza, poi per la manovrina. Non c'è più traccia della norma salva Flixibus. Quindi a me dispiace dirlo all'ascoltatore che è l'autista di Flixibus. Il tema è sempre il solito: aprire la concorrenza mantenendo uguale campo da gioco, uguali condizioni, però insomma, aprire alla concorrenza. 349-238-6666 per sms e whatsapp, appunto, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo al primo tema, primi due temi, l'Italia in Europa e quindi fronte migranti, con quello che comporta anche in termini economici ma anche di tenuta sociale, di consenso sociale, non giriamoci attorno. Mentre l'Europa, che è così nicchia nicchia, Giannino prima diceva Macron si è sfilato dall'Italia, nicchia nicchia, poi però sull'agenzia del farmaco scopriamo che l'asse Vienna-Berlino che porta avanti Bratislava, che poi si chiama Bratislava ma si legge in tedesco, vuole beccarsi anche l'Agenzia Europea del Farmaco. È inutile che vi dica come la pensi io, che l'eccesso di arroganza ha sempre fottuto i tedeschi, e in questo caso a maggior ragione dopo l'uscita della Gran Bretagna, o con l'uscita della Gran Bretagna in corso, continuare a, non dico umiliare, ma a dare questo segnale di arroganza, di Deutschen über alles, sempre comunque in Europa, non farà che creare danni al consenso verso l'Europa, e già ne ha fatti in questi anni. Però sapete, delle volte, anzi spesso, le nostre sono parole al vento. We'll be right back. Allora, partiamo dagli sbarchi nei porti italiani. Oggi 4.000 arrivi. In particolare la centrale operativa della Guardia Costiera ha spiegato, quella che coordina le operazioni, che a Reggio Calabria la nave VOS Estia di Save the Children è arrivata con 1.000 persone a bordo. A Salerno la Rio Segura della Marina Spagnola, inserita nel dispositivo Frontex, è arrivata con 1.200 persone. La nave Aquarius di SOS Mediterranee a Corigliano Calabro, 1.000 persone. A Messina la P62 della Guardia Costiera Maltese. Qualcuno mi deve spiegare perché la Guardia Costiera Maltese non scarichi i migranti a Malta, ma non voglio arrabbiarmi subito. 400. A Trapani è previsto l'arrivo di un mercantile con altre 400 persone. Ieri 2.000 migranti sbarcati, 800 persone soccorse nel Mediterraneo, 80.000 i migranti sbarcati sulle coste italiane, 2.000, ahimè, la drammatica cifra dei morti affogati. A Malta non è sbarcato nemmeno un profugo. L'anno con più migranti a Malta fu il 2005. Ora, non voglio dire che tutti devono essere trasferiti a Malta, ma mi spiegate perché la nave maltese scarica a Messina, non va a scaricare? È in Europa Malta o no? E poi ci sono i porti francesi, ci sono i porti spagnoli, allungherebbe la cosa? Non lo so, comunque. E questo nel giorno in cui viene diffuso il rapporto OCSE sulle prospettive delle migrazioni internazionali. L'Italia non si è mai sottratta ai propri impegni, ha detto nel frattempo Gentiloni, per il soccorso in mare e l'accoglienza umanitaria, ma chiede di discutere il ruolo dell'ONG, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani. Allora, visto che ho criticato la Germania per quello che dice, vale anche la pena ricordare ai cugini francesi e a Macron che l'intervento del suo predecessore, non predecessore in linea diretta, insomma, Sarkozy, è quello che ha generato il casino in Libia, che la Francia con grande lungimiranza pensava di poter, diciamo, mettere o controllare la Libia, anche e soprattutto per motivi di carattere petrolifero. Quindi, se non esiste più una frontiera libica, è grazie anche all'intervento francese. Non è che i cocci possiamo sempre prenderci noi. Comunque, Gentiloni. Io ho utilizzato anche questa occasione per rappresentare ai colleghi europei la estrema preoccupazione per il rischio dell'accentuarsi dei flussi migratori negli ultimi giorni, in particolare nel nostro paese, un paese che non si è mai sottratto ai propri impegni per quanto riguarda il soccorso in mare, l'accoglienza umanitaria, e che non intende sottrarsi a questi impegni in futuro, ma chiede di discutere del ruolo delle organizzazioni non governative, della missione di Frontex, delle risorse a disposizione per lavorare in Libia e negli altri paesi africani, della possibilità di allargare i nostri programmi di relocation. Ringrazio tutti i colleghi leader europei per la solidarietà e la comprensione di queste difficoltà che dobbiamo affrontare in comune, e rispetto alle quali dalla Commissione europea è venuto sempre, di nuovo questa mattina, la conferma di un impegno notevole. Questa disponibilità che è emersa nella riunione di oggi avrà un primo sbocco concreto, me lo auguro, mercoledì prossimo nella riunione dei nostri ministri degli interni a Tallinn. Allora, intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento Stefano Scarpetta, che è direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali dell'OCSE. Buonasera, direttore. Buonasera a voi. Perché oggi voi avete pubblicato come OCSE un rapporto, e proprio lei ha dichiarato che il picco della crisi umanitaria dei rifugiati è comunque dietro di noi. A leggere queste cifre non sembrerebbe. Può articolare questa prima affermazione, poi dopo il meteo ragioneremo sul resto e ascolteremo anche le varie posizioni di Macron, di Juncker, di Rajoy, quindi Francia, Bruxelles, Spagna e anche il commissario europeo. Cosa vuol dire che il picco della crisi umanitaria è dietro di noi, direttore? Ma diciamo che nella seconda metà del 2015 e poi nel tutto 2016 abbiamo avuto circa 1,5 milioni di domande d'asilo nei paesi OCSE, di cui 2/3 nei paesi europei. Se guardiamo i primi 6 mesi del 2017, le domande di asilo si sono ridotte in maniera considerevole, circa 10 volte. Questo ovviamente a livello aggregato. L'Italia a questo punto è veramente in prima linea, perché la rotta del Mediterraneo centrale è una rotta che viene prediletta dai richiedenti asilo in quest'ultima, nella fase più recente. Quindi l'Italia è in prima linea a livello più generale, le domande di asilo, la crisi umanitaria in qualche modo si è ridotta nella sua entità, nei numeri aggregati. Ecco, però è chiaro che i dati invece che vediamo noi vanno in segno diametralmente opposto, cioè sbarchi che stanno raggiungendo, per carità lo sappiamo che d'estate si arriva verso i picchi, ma che hanno visto sbarcare oltre 80.000 migranti sulle coste italiane, 4.000 solo oggi. Mi scusi, poi vado sulla pubblicità, ma il fatto che sbarchino sulle coste italiane navi di Malta, dove non è mai sbarcato un profugo in questi ultimi anni, o navi spagnole, non le sembra un assurdo? Sì, sono fenomeni molto complessi, se vuole. Quello che sta succedendo è che ovviamente nel 2015 e 2016 abbiamo avuto l'acuirsi della guerra in Siria, e quindi molti dei richiedenti asilo erano appunto dei rifugiati che venivano dalla Siria, che venivano dall'Iraq, che venivano dall'Afghanistan. Oggi ovviamente la crisi si è trasferita nei paesi africani, e quindi molti dei flussi sono quelli che appunto utilizzano la rotta del Mediterraneo centrale e che sbarcano poi in Italia, molti di loro in Italia. Quindi è un cambiamento, diciamo, nella composizione dei flussi, i flussi sono ridotti, ma l'Italia a questo punto è veramente in prima linea, e il Presidente del Consiglio ha giustamente ricordato il fatto che l'Italia, essendo in prima linea, ha bisogno di un sostegno da parte di tutta l'Europa. No, ma adesso io è chiaro, vedo dei messaggi anche così provocatori, qualcuno dice portiamoli, sbarchiamoli nella Costa Azzurra. Il punto è un altro, cioè è capire se è tutto normale che tu debba sbarcarli sui porti italiani. Nel senso, Malta non mi sembra così più distante rispetto alla Sicilia, dalle coste africane, e non ha accolto un profugo. Non è che è troppo comodo sbarcare in Sicilia? Non so, credo sia troppo comodo. Sicuramente l'Italia è un paese di accoglienza, e quindi ha dimostrato anche il suo grosso sforzo. Adesso dire che bisogna chiudere, come dire, l'accoglienza, stiamo parlando ovviamente di persone che scappano da situazioni di grande difficoltà, addirittura la guerra o comunque la fame. È chiaro che un paese da solo, anche l'Italia, non ce la può fare, quindi c'è bisogno di un intervento congiunto. Quindi sì, in questo modo vedere lì. Lei dice giustamente, però guardi, adesso le ascolteremo dopo il meteo, le dichiarazioni di Macron di oggi sono abbastanza paragure, per essere buoni, perché lui dice no, massima solidarietà sui migranti politici, su chi chiede rifugio, asilo politico, altra cosa i migranti economici. Peccato che sappiamo tutti che ci sono situazioni di asilo politico, ci mancherebbe, anche dei paesi, diciamo, africani, ma l'80% di questi sono migranti economici. Quindi se l'Europa inizia a dire prendiamo solo il siriano che scappa dalla guerra, ma non accogliamo nigeriano piuttosto che di un'altra nazionalità che viene per motivi economici, e chi si rigestisce questi? Solo l'Italia? No, l'Italia non può gestire da sola, questo è chiaro. È chiaro che bisogna lavorare anche nei paesi di origine, e quindi uno sforzo che ha fatto l'Italia e che deve fare l'Europa è anche quello di lavorare per esempio in Libia, paesi da cui molti poi partono. Bisogna vedere il problema nel suo insieme. Abbiamo in qualche modo superato forse il picco della crisi, diciamo, dei rifugiati politici a causa della guerra in Siria, e questo secondo me, se dovesse continuare, è sempre una situazione molto instabile, è un segno positivo. Rimane un problema molto più profondo, che è quello della crisi economica in molti paesi africani, e quindi della forte pressione a una migrazione più di natura economica, che utilizza appunto questa rotta del Mediterraneo centrale, che quindi poi ovviamente riguarda l'Italia in prima battuta. Spero che la riunione, appunto, che sarà soltanto un passo in questa riflessione a livello europeo, della settimana prossima, la riunione informale dei ministri dell'interno, possa essere un elemento di riflessione. Il punto che oggi ha ricordato sia il commissario Avramopoulos che poi Juncker, cioè di forte solidarietà da parte della Commissione europea all'Italia, mi sembra comunque una posizione importante che dovrà essere anche poi riflessa nel dibattito, sì, tra i ministri. Sono d'accordo con lei, poi però vedere cammello, nel senso che la solidarietà a parole ce ne facciamo nulla, perché lei ha ragione a dire che il flusso di migranti, il picco di migranti politici si è esaurito, si è ridotto moltissimo. Abbiamo dato come Europa 3 miliardi e mezzo a quella simpatica democrazia che si chiama Turchia, per tenersi lì, perché erano problemi tedeschi, ungheresi, cioè, mi scusi se sono così diretto, ma oggi tedeschi, ungheresi dell'est Europa, perché i siriani sbarcavano in Grecia, facevano Turchia, Grecia, e poi prendevano la strada dell'est Europa. Quando il problema è stato la Germania, l'est Europa, l'Austria, l'attraversamento, la Croazia, abbiamo trovato un accordo. Se sbarcano migranti o chi fugge dalla povertà più che dalle dittature o dalla guerra, Il problema è tutto italiano, quindi magari complessivamente la cifra si è ridotta, Scarpetta, ma la cifra di pertinenza italiana non si è ridotta, non so se mi sono fatto capire. Dopo il meteo, la risposta 349-238-6666 per sms e whatsapp. Focus Economia. Abbiamo sentito le parole del Presidente del Consiglio italiano che ci ha riferito sulla nuova situazione che si è creata in Italia e per quanto riguarda la Commissione, io posso dire che da molto tempo noi come Commissione siamo del parere che non possiamo abbandonare né l'Italia né la Grecia. Insieme dobbiamo compiere degli sforzi per sostenere queste due nazioni che sono veramente eroiche nell'accoglienza dei rifugiati. Celui maintenant qu'on utilise des migrants, je pense qu'on confond toutes les réalités. Il y a grazie a tutti quelli che hanno aiutato per il problema dell'immigrazione, ma non dobbiamo fare l'errore insomma, di confondere troppe cose. Abbiamo un problema con i colleghi che chiedono l'asilo perché provengono da paesi in cui hanno grandi difficoltà appunto economiche, una tematica sulla quale ho già lungo discusso insomma, con la cancelliera e tutti i paesi devono praticamente dare il loro contributo, cioè dando asilo a tutti quelli che vengono per motivi politici. Poi abbiamo anche il problema dell'immigrazione economica che è un problema insomma che deriva da situazioni, da problemi economicamente destabilizzanti, climaticamente destabilizzanti, che vivono in paesi appunto difficili. L'80% del problema di immigrazione che descrive il collega italiano insomma dipende da l'80% dei profughi che vengono da paesi insomma per motivi economici e non dobbiamo confondere le cose. Per quanto ha appena detto Paolo Gentiloni, devo ribadire che il suo paese, la sua situazione, noi dobbiamo lavorare anche rapidamente nel senso di trovare rapidamente delle soluzioni efficaci ed efficienti che consentono sia di trattare in maniera umana chi richiede asilo ma anche di affrontare appunto rapidamente anche quelli che vengono per motivi economici. Dobbiamo sempre fare leva sul paese di origine dei flussi migratori. E lì i legami devono essere migliorati e soprattutto ci vuole un'azione determinata contro gli scafisti. Per quanto riguarda l'Italia siamo pienamente solidali con il governo e con il popolo italiano. Noi concederemo qualsiasi aiuto possibile per noi all'Italia per impedire che si crei una situazione non più gestibile e drammatica. Allora, nell'ordine avete sentito il Presidente della Commissione Europea Juncker, il Presidente francese Emmanuel Macron, tutti nel G20, il vertice preparatorio del G20 a Berlino e il Primo Ministro spagnolo Mariano Rajoy. Tutti dicono di essere solidali con l'Italia e va bene, Macron però fa un distinguo, dice attenzione, un conto è i richiedenti asilo, i profughi e un conto sono quelli che vengono per motivi economici, cioè la stragrande maggioranza di quelli che sbarcano, che vengono salvati e poi portati nei porti italiani. Nessuno ha mai fatto un'apertura concreta, vede direttore Scarpetta, è questo un po' che agita l'opinione pubblica. Nessuno ha mai detto beh dobbiamo far di più noi come Francia, come Spagna, accogliamo qualche nave in più, i soldi sono ancora vaghi, ma insomma siamo alla solidarietà, ma con la solidarietà diciamo ci fai poco o no direttore? No, sono assolutamente d'accordo che bisogna passare all'azione, cioè manifestazioni di solidarietà, di supporto sono ovviamente importanti, è un primo passo, ma credo che vista la urgenza della crisi, soprattutto in Italia, bisogna poi passare ai fatti, per questo credo che le dichiarazioni anche fatte dal commissario e dal presidente Juncker e la riunione della settimana prossima debbano essere un punto importante, però bisogna anche mettere le cose un po' in prospettiva, perché prima facevo riferimento alla Turchia. Ricordiamoci che la Turchia ha 3 milioni di siriani che sono sotto protezione temporanea, quindi la Turchia ha assorbito questo enorme numero di siriani e li sta comunque aiutando in questo momento. Ricordiamoci che la Germania soltanto nel 2016 ha ricevuto più di 700.000 richiedenti asilo. Sì, è la seconda, noi siamo al terzo posto con 122.000. Siamo al terzo posto. Sì. Ricordiamoci però anche che pro capite, perché bisogna tenere conto anche poi della capacità di accoglienza di un paese, un paese come l'Austria ha un numero di richiedenti asilo doppio rispetto a quello dell'Italia. Quindi diciamo che non tutti sicuramente, ma un certo numero di paesi europei hanno fatto uno sforzo grosso negli ultimi anni. Questo deve essere tenuto in considerazione. Detto questo, questo non diminuisce la gravità della situazione che oggi affronta l'Italia e che purtroppo ha affrontato anche negli ultimi anni, perché comunque i flussi sono stati importanti anche negli anni scorsi. Mi scusi, Scarpetta, dal suo osservatorio dell'OCSE, lei però non nota, da italiano glielo chiedo in questo caso, non nota una differenza tra come ci si è mossi in un'emergenza gravissima, noi facciamo anche dei viaggi e dei reportage sulle rotte dei migranti nel 2015, quando arrivarono i flussi di siriani sulle coste greche del Dodecaneso, mentre c'erano i villeggianti di tutto, e da lì poi iniziarono le tensioni con la Croazia, Serbia, poi Croazia, tutti che alzavano le barriere. Angela Merkel che prese l'iniziativa, in quel caso l'applaudemmo, dicendo no, attenzione, dobbiamo dare un segnale. L'accordo con la Turchia, insomma tutto questo rispetto al fronte sud, al fronte libico, in cui sì, tutti, ma si è mosso molto poco. Non ci sono due pesi, due misure, secondo lei? Diciamo che anche la risposta che è stata data alla crisi umanitaria, quella appunto legata alla guerra in Siria, è stata una risposta insufficiente. No, ma parliamo della Libia un secondo però. Sì, no, voglio dire, quello è stato importante, si poteva fare più e si dovrà fare più nel futuro se ci dovesse essere una crisi di quel tipo. Detto questo, la crisi attuale deve essere affrontata, come è stato anche ricordato, lavorando con la Libia, lavorando nei paesi appunto che sono i paesi di origine, ma lavorando, perché il problema diverso è che questo è un problema più strutturale, cioè i flussi che stiamo vedendo adesso arrivare sulle coste italiane sono flussi legati a, come diceva lei, dei problemi economici e non sono dei flussi che sono destinati a ridursi in maniera significativa negli anni prossimi, a meno di un sviluppo, di una ripresa economica del continente africano e soprattutto dei paesi che sono quelli più in difficoltà. Quindi questo richiede un aiuto allo sviluppo in questi paesi, richiede comunque lavorare più con la Libia in un contesto estremamente difficile, quello libico, e soprattutto avere una sola voce da parte dell'Europa. Non ci siamo ancora, però secondo me è questo un po' il cammino su cui bisogna orientarsi. È un problema più strutturale, quello della crisi umanitaria che abbiamo affrontato negli ultimi due anni è una crisi purtroppo legata a una guerra drammatica che ha portato un esodo. Sì, ma a me lo dico con massimo rispetto per i siriani, per i profughi di cui siamo occupati tantissimo. In questo momento il problema non è la Siria, non sono i flussi Siria, Turchia, il problema ce l'abbiamo noi in casa. Ed è un problema che diventerà anche, già diventato politico, perché poi lei non riesce a tenere un paese, non lo dico a lei che non è un politico, ma tu non riesci a tenere un paese quando hai questi flussi migratori, a tenere l'opinione pubblica. Un'ultima cosa, Scarpetta, secondo lei, mi scrive un ascoltatore, mi dice, parafrasando un famoso detto, tutti europei con le ONG degli altri, non è male. Allora, c'è un ruolo nell'ONG? Io faccio parte, l'ho detto più volte come disclaimer, nel Consiglio di Amministrazione di Oxfam, per cui figuratevi se da parte mia arriva una critica in generale di principio ONG, ma nel concreto voi avete avuto la sensazione che ci sia un eccesso di aiuto, cioè che se tu me li vai a prendere appena finisce il confine marino libico, praticamente i barconi vengono lanciati così, e quindi questo incrementi i flussi, non sia solo un'operazione umanitaria di chi rischia di morire e ci mancherebbe che tu non lo salvassi, ma vada a creare quasi un canale di flussi migratori? E che le ONG debbano anche dover rispondere come tutti di qualcosa, come lavorate in questo momento, sì o no? Ma guardi, i flussi migratori si spostano lì dove il contesto diventa in qualche modo, dove ci si aprono delle passerelle. Detto questo, credo che lo sappiamo, lei lo stava ricordando, le ONG hanno svolto un ruolo fondamentale proprio anche per... Però vuol dire che ci sono delle passerelle che hanno aperto? E quello bisogna affrontarlo, assolutamente sì. Detto questo, quello di cui stiamo parlando sono di barconi in cui le persone rischiano di morire appena poi, come dire, lasciano le coste libiche, quindi c'è un problema anche proprio di aiuto umanitario. La risposta non può, cioè non bisogna fare di mettere tutto insieme, credo che molte, se non tutte le ONG hanno fatto un lavoro straordinario. Non ho mai detto questo, però neanche dire che sono tutti santi, o meglio, magari sono santi, ma sbagliano l'approccio, perché se tu vai a salvarmeli sotto la costa dove ci sono le acque internazionali, stimoli ancora di più a caricare sui barconi che almeno prima tentavano la traversata, mettiamola così con un po' di cinismo. Qui tanto sai che te li salvano dopo 15-16 miglia nautiche, a questo punto puoi anche mettergli un motore finto. Perché questo è il problema, allora vai a incrementare, non è salvare chi è già in mezzo al mare, che ci mancherebbe, ma ci mancherebbe non salvarlo, è dire guarda che come tu superi le miglia nautiche libiche c'è già pronto chi ti aspetta e non ti porta mai in Spagna, a Malta, in Francia, ti porta tanto in Italia perché teoricamente è la più vicina. Comunque ho capito la sua posizione, grazie anche al direttore dell'Ocse, grazie anche per la disponibilità, per il rapporto che hanno fornito oggi. E quindi grazie a Stefano Scarpetta, direttore per l'occupazione, il lavoro e gli affari sociali. Andiamo sul traffico. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Focus Economia. Dunque, mi scrive un ascoltatore, lei ormai parla come un leghista di qualche anno fa. No, però, per favore, cioè non è che se uno tocca il tema della fronte europeo e equa gestione di un dramma umanitario, e anche gestione significa anche cercare di non invogliare e di soccorrere, sì, invogliare. No, se poi queste cose le dice anche Salvini, le dicono anche 5 Stelle, non, va benissimo. Delle volte dico cose che ribadisce il governo, ho speso lodi in questi mesi per il ministro Calenda, delle volte chi se ne frega, cioè il problema è capire che c'è un problema di tenuta anche europea, quindi anche economica su questo. E perché lo associamo a un altro tema? Perché oggi vogliamo essere cattivi. E nel frattempo, mentre l'Europa, grande, belle parole, però subito pronta a distinguere, perché tutti hanno poi la loro opinione pubblica e quant'altro, e ripeto, non posso non notare che, ne dica il direttore Scarpetta, un diverso trattamento tra quando i profughi erano siriani e minacciavano l'Est Europa e la Germania, e quando i profughi sono africani. Nel frattempo rischiamo, o meglio, questa è la paura del Sole 24 Ore, come pubblica oggi, di perdere l'agenzia di farmaco, non che ce l'avessero mai data, però Milano era una delle candidate forti per l'agenzia del farmaco europeo. Francoforte dovrebbe prendersi l'agenzia, o meglio, l'autorità bancaria europea, l'EBA, e oggi spunta l'ipotesi che un asse Vienna-Berlino spingerebbe per la candidatura paravento, lo dico con massimo rispetto per gli slovacchi, ma chiaramente nell'orbita tedesca, di Bratislava, città a 50 km da Vienna. E Vienna potrebbe dividere parte degli uffici dell'agenzia dei medicinali. Il criterio geografico, perché Bratislava è l'unica dei paesi a non ospitare già un'agenzia o un organismo, e poi la Bratislava avrebbe l'appoggio della Germania, che otterrebbe i voti di paesi dell'est e a loro volta darebbero il voto alla Germania per l'EBA. Uno scambio vero e proprio. Marzio Bartoloni del Sole 24 Ore, buonasera Marzio. Ciao Sebastiano, buonasera. Ecco, ne hai scritto tu di questo. Da dove nasce questa preoccupazione? Accennala e poi continuiamo dopo il GR24. Ma è semplicemente perché è vero che il trasloco delle due agenzie avverrà a metà aprile del 2019, soltanto che la partita si gioca adesso. Le candidature vanno fatte entro luglio e diciamo tra settembre, ottobre e novembre si chiudono i giochi. E i rumors che abbiamo raccolto ci dicono che Milano è in discesa, mentre appunto sta uscendo questa candidatura forte di un paese dell'est, soprattutto con l'appoggio di Berlino e di Vienna, perché appunto Vienna offrirebbe le infrastrutture necessarie a far decollare la candidatura di Bratislava. Ecco, questo perché? Perché voglio dire, e da lì io devo dire che Adriana Ceretelli, la mitica, oggi non poteva intervenire, ma ha ragione nello scrivere, è in volo, nello scrivere, insomma, l'Italia faccia alzare la sua voce, perché se io unisco il tema migranti, le risposte belle, generiche, no, ma come no, la pacca sulle spalle, pac, e poi non capita nulla, e il tema agenzia del farmaco, ha ragione chi mi scrive, un ascoltatore, ci hanno fatto il biscotto, non devo spiegarvi cos'è il biscotto, vado sul GR24, resta con noi Marzio Bartoloni, poi parleremo anche di borsa delle banche venete. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Sono Enrico Ruggeri. Questa settimana storie drammatiche e storie intense al Falco e Gabbiano. Se oggi noi conosciamo e apprezziamo Van Gogh, lo dobbiamo a sua cognata Joanna Van Gogh. Wolfgang von Trips, il nobile che attraverso la sua passione per le auto andò incontro alla tragedia. E poi voliamo sulle ali di carta fino a Verona per l'amore più famoso della storia, Giulietta, con il suo Romeo naturalmente. Un grande poeta, un grande uomo, un grande musicista dalla voce inconfondibile, Leonard Cohen. L'eroica, folle, tragica epopea del bandito Pugačov. Vi aspetto tutti i giorni alle 15:30 al Falco e il Gabbiano su Radio 24. Focus Economia. Sono 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavamo ragionando con Marzio Bartoloni del motivo per cui, diciamo, sembra scendere la candidatura di Milano come agenzia del farmaco europea e salire quella di Bratislava. Ci sono dei criteri che stanno seguendo, però, Marzio? Sì, allora, tra l'altro mi fa piacere fare un aggancio su quello che dicevate prima sull'emergenza migranti, che secondo me il problema dell'Italia in questo momento, come scriveva bene la nostra collega Cerretelli, che l'Italia è assorbita da altre priorità emergenza come quella migranti, ma poi magari un giorno sono le banche, poi la flessibilità, l'iperdebito, non riesce ad alzare la voce su cose che potrebbero aspettarli come l'agenzia del farmaco, perché secondo i requisiti, diciamo, ci saranno 6 requisiti che decideranno la candidata ideale. 5 sono tecnici e 1 appunto geografico, cioè è per far, diciamo, venire incontro a chi non ha ancora un organismo europeo nel proprio paese. Però i criteri tecnici in teoria premierebbero benissimo Milano, perché diciamo sono criteri legati a disponibilità di spazi. Milano ha già messo a disposizione per garantire la continuità dell'attività dell'agenzia, e Milano ha messo già a disposizione il Pirellone, infrastrutture, servizi per funzionari e famiglie, e poi anche l'ambiente, l'ecosistema. Non so, uno può Milano dire quello che vuole, ma se uno dice che Bratislava ha un orientamento più finanziario, più multinazionale, più cosmopolita rispetto a Milano, io capisco tutto, però ti mando anche a quel paese, perché adesso, ma perfino esatto. Vienna, secondo me, con massimo rispetto per la bellezza di Vienna, non regge il confronto con Milano quanto a piazza d'affari, quanto a ruolo che ha nella moda, nell'abbigliamento, nella ricerca, nelle grandi industrie, insomma, di cosa stiamo parlando? Su Bratislava va ben tutto. È che questa è un'agenzia che comunque fa gola, perché simbolicamente è molto importante, insomma, la FDA americana, perché è l'agenzia che fa gola e genera anche soldi sul territorio. Io ricordo spesso i 400 posti letto che solo a Londra vengono occupati ogni giorno, ogni sera, dall'EMA, perché sono persone che vengono per lavorare, per incontrare funzionari internazionali che vengono, insomma, solo questo. Però adesso va ben tutto. Hai ragione nel ricordare quanto più volte ci ha rammentato Adriana Cerretelli il fatto che noi siamo sempre, non dico distratti, ma abbiamo una priorità sempre diversa in Europa. Prima la manovra correttiva, avere maggiore flessibilità, poi c'era il tema delle banche e anche lì arriviamo sempre in ritardo, diciamo. Se vogliamo, il vulnus forse è stata questa ricerca continua di avere un po' di decimali di flessibilità, ma in realtà poi non ci ha permesso di affrontare il tema delle banche, a sua volta le banche non ci hanno permesso di affrontare il tema dei migranti, adesso c'è il tema dei migranti che è fondamentale, e passa in secondo piano la lotta, tra virgolette. Come si fanno queste lotte? Lo dico a chi mi scrive. Si fanno raccogliendo attorno a sé paesi che ti vanno a votare, un po' come fece il mitico allora ambasciatore Fulci dell'Italia all'ONU, quando al tempo Germania e Giappone cercavano di fottere, lo dico con massimo francesismo possibile, l'Italia nei seggi di permanenza, il quick fix si chiamava. Ecco, Fulci si portò dietro tutto un insieme di paesi, l'ONU e l'ONU, l'Unione Europea e l'Unione Europea, cose diverse, che votavano l'Italia per evitare lo strapotere giapponese o tedesco. Allora, bisogna fare anche la politica a livello europeo e trovare degli alleati per evitare lo strapotere tedesco, perché non dico, si legge Bratislava ma si scrive Germania. Ok, e così che avrà già l'autorità finanziaria. Nel ringraziare Marzio Bartoloni, quando avremo, scusami Marzio, qualche indicazione ancora più serrata su questo? Allora, diciamo, a fine luglio sapremo esattamente quali sono le candidate. Adesso sono state annunciate addirittura 22 città, però insomma ci sono già le favorite. Quindi a fine luglio sapremo chi corre, e a ottobre, diciamo, forse ci sarà la decisione politica al Consiglio europeo, il voto definitivo a novembre, dove ci sarà appunto, come dicevi te, una votazione segreta, scrutinio segreto, e ogni paese vale un voto, e questo sicuramente non aiuterà l'Italia, anche perché i paesi dell'est sono circa una decina e fanno blocco con la Germania, partiamo svantaggiati. Vabbè, speriamo che ci sia anche un'unione di intenti, come fu ai tempi dell'Expo. L'Expo fu portato avanti da un governo, poi arrivò il governo successivo, ma ci fu una forte continuità per aggiudicarsi l'Expo. E grazie intanto a Marzio Bartoloni. Devo dire invece un ascoltatore che mi dice che ho detto una cosa abominevole sui migranti, la proposta di rendere più difficoltose le manovre di recupero dei migranti che partono dalle coste libiche, far più strade anziché aiutarli prima. No, io ho detto, io non ho detto che devono guadagnarsi l'aiuto in mare, ho detto semplicemente che un conto è soccorrere un'imbarcazione che sta naufragando e che ha dei disperati a bordo. Un conto è, secondo le accuse che non sto facendo io, ci sono delle procure che indagano e ci sono, e c'è anche un ministro, un primo ministro Gentiloni, che qualcosa ha detto su questo. Un conto è avvicinarsi al limite delle acque territoriali, quindi delle acque internazionali, e aspettare lì i barconi, perché è chiaro a tutti che la differenza tra soccorrere qualcuno che è in difficoltà e avere una rete che ti accoglie subito dopo la fine delle acque territoriali libiche è un po' diverso. E non è che uno è leghista, è razzista, è pentastellato, ma ne frega nulla, è semplicemente diverso. E bisogna stare attenti quando tu, con un'azione del genere, incentivi ulteriormente il traffico a fronte di un'assenza di accordi veri in un'Europa che si è veramente spesa in Libia. E le bombe erano francesi oltre che americane, però poi chi ci deve andare a gestire le cose sono spesso italiani. Comunque andiamo sulla borsa, che sennò mi arrabbio troppo oggi. Borse oggi tutte deboli rispetto alle ultime sedute, -1,60% Milano, -1,90% Parigi, -1,80% Francoforte, -0,50% Londra, -0,60% anche Dow Jones, perché un po' l'America, un po' non si è capito, adesso chiedo spiegazioni, anzi le chiedo subito a Eleonora Micheli, Radio Corriere del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera, ma sì, come hai detto tu, continua a preoccupare soprattutto l'andamento del Nasdaq, che è particolarmente debole. Poi ricordiamo che del resto anche due giorni fa la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, senza tanti giri di parole, ha detto che probabilmente le quotazioni di numerose società sono troppo elevate, riferendosi probabilmente proprio ai colossi tecnologici quotati sul Nasdaq. E quindi diciamo vanno tutte in quella direzione. Tra l'altro da noi particolarmente debole Case New Holland -3,60, CNH Industrial, Brembo -3,40, Recordati -3,40, Exor -3,20 come Ferragamo e Leonardo ex Finmeccanica, Fiat Chrysler -3 come Moncler, Hughes Saint Porté, poi Ferrari -2,60 e STMicroelectronics -2,5 come Banca Mediolanum e Snam, Terna -2,30 come Luxottica, Buzzi, Unicem e A2A, mi fermo sul 2% di calo, Enel, Italgas ed Eni. Bene invece Banco BPM +3,40, Ubibanca +2,38, Tenaris +0,80%. Eleonora, la sensazione è che si sia venduto tutto, non un singolo settore. Ma sì, praticamente, anzi sono andati male soprattutto i titoli che sono in mano ai grandi investitori, quindi quelli del FTSE MIB, vediamo le grandi società che ricorrono di più nei grandi fondi di investimento. Detto questo, come si sono salvate invece le azioni delle banche per due motivi: sono andate bene un po' in tutto il mondo perché le banche americane hanno superato gli stress test e di conseguenza è come se la Federal Reserve avesse dato il via libera anche alla distribuzione dei dividendi, che peraltro sarà la maggiore da 10 anni a questa parte. Poi inoltre, per quanto riguarda l'Europa, serpeggia l'indiscrezione riportata tra l'altro anche dalla stampa che la stessa Ecofin possa varare un modello universale di bad bank che poi i singoli governi nazionali potranno mettere in pratica. Insomma, si scommette sul fatto che anche in Italia nasca una grande bad bank, e questo ha spinto in alto soprattutto le quotazioni di Banco BPM, che sono salite del 3,45%, di UBI +2,38%, ma alla fine ad esempio anche Biper ha ridotto i danni a 0,5%. Sono andate un po' peggio Intesa San Paolo, -1,3%, perché ricordiamo è andata molto bene nei giorni scorsi dopo appunto l'annuncio dell'intervento nel salvataggio delle banche venete, intervento certo. Che gli analisti considerano a condizioni favorevoli per Intesa. Migliori e peggiori in assoluto, Prelios meno 7,90, Tods meno 7,80, Pininfarina meno 7,50, Gruppo Green Power meno 6,80, Visibilia Editore meno 6,60. Il fronte opposto invece Stefanel più 23%, Invest più 9,30, Credito Valterinese più 5,20%. Grazie Eleonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, andiamo sul traffico e poi la seconda parte del ragionamento che avevamo iniziato ieri con un grande conoscitore del Nord-Est, perché sto per anni presidente anche della Fondazione Nord-Est, Daniele Marini. Come si tiene assieme, come vive un'area che da un lato viene additata come la più grande, anzi perché lo è, essere l'epicentro della più grande crisi bancaria, superiore anche per dinamiche e rischi a quella del Monte dei Paschi per alcuni versi, dall'altra l'area che invece viene evidenziata e messa in risalto come quella che più contribuisce alla crescita del PIL, ultimi dati Istat. È la riflessione che è stata fatta. È un'analisi in due puntate, oggi abbiamo la seconda. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta Focus Economia. Minuti. Dunque, Daniele Marini, ieri avevamo affrontato la prima delle due facce, come abbiamo chiamato questo approfondimento, Veneto Nord-Est a due facce. Quella che ha permesso ai distretti, che tu giustamente chiami dislunghi, cioè di allungare, di non essere più solo delle enclave produttive, cogliere le opportunità all'estero, riposizionarsi sulla fascia alta di prodotto e quindi non sentire più il fiato sul collo della Cina, andare anche a rilocalizzare, cioè il reshoring, riportare a casa parti delle produzioni a maggior valore aggiunto perché c'è più qualità se le fai fare a casa e via così, e ben distribuirsi, come ricordavamo dai dati sull'export, in tutto l'export il Veneto esporta un 60% nell'area euro e un 59% nell'area euro e 41% fuori dall'Europa, è la seconda regione come esportazioni, ben distribuita appunto, 59-41, un terzo è rappresentato da Germania, Stati Uniti e Francia, e poi un incremento che ha portato l'export a 58 miliardi di euro l'anno scorso, è un sesto del totale nazionale. Daniele Marini, innanzitutto grazie per essere tornato con noi, ricordo ex presidente della Fondazione Nord-Est e attualmente insegna sociologia all'Università di Padova e direttore scientifico della Community Media Research, buonasera di nuovo. Buonasera, grazie a voi. Allora, andiamo sulla seconda parte. La seconda parte riguardava, qui c'è un'economia del territorio, dei distretti che diventano dislunghi, che vanno in filiera non più sulla parte geografica ma sul valore, quindi hai un fornitore che magari sta da un'altra parte, un cliente da un'altra parte ancora, ma insomma tu crei valore, ti adatti ai meccanismi internazionali, vai, alzi il livello di produzione, vai sui mercati più interessanti e insomma fai tutto questo lavoro. Dall'altra parte abbiamo un territorio, qui vengo alla parte più negativa, che a mio avviso non ha neanche iniziato a metabolizzare che cosa è successo in quei 70 chilometri scarsi che segnano il confine tra Montebelluna e Vicenza, o Treviso e Vicenza, cioè il più grande crack, quello di cui tutti parlano a livello europeo, un crack che ha generato già solo così 11 miliardi di risparmi bruciati a quanto azionisti, con i famosi conto correnti bruciati, con questa voglia di nascondere le sofferenze continuando a aumentare il valore del titolo in borsa, chiedendo a chi voleva un mutuo di comprarsi le azioni collocate a prezzi folli, però con molto legame anche sul territorio, oltre che legami che chiarirà la magistratura con ex funzionari Banca Italia, ex ragionieri dello Stato, ex guardia di finanza, ex magistrati, quant'altro. Io non ho visto nessuna elaborazione di che cosa non ha funzionato, cioè forse l'orgoglio di avere il territorio, noi veneti, il territorio, la banca del territorio, l'imprenditore del territorio. Ti tocca ammettere che in questo caso causa del tuo mal è stato proprio il territorio, no Marini? Direi di sì, ahimè. distinguiamo i livelli di metabolizzazione, nel senso che sicuramente il colpo è stato percepito non solo metaforicamente ma proprio fisicamente. Basti vedere i movimenti delle associazioni varie che si sono create e le proteste, in alcuni casi addirittura anche come è successo esattamente nei giorni scorsi di qualcuno che va in banca e si tenta il suicidio iniettandosi insulina. Cioè, sì. Quindi diciamo così che la società nel suo complesso, soprattutto chiaramente quelli che sono stati investiti da questi problemi, li vivono sulla propria pelle. E quindi non ci sono forme eclatanti di protesta, ma comunque ci sono forme di protesta. Questo è un aspetto. Il secondo aspetto è che effettivamente la classe dirigente, che non è, perché qui non stiamo parlando di politica e la politica non ha colpe, perché in queste situazioni una parte significativa della classe dirigente veniva esattamente dal mondo produttivo, cioè quel mondo produttivo che era stato l'emblema del nord-est, della crescita del nord-est. Ecco, qui sì, effettivamente hai ragione, non c'è stato ancora un processo di riflessione per capire quali sono stati i meccanismi che non hanno funzionato, perché evidentemente c'è stata una crescita economica rilevante, ma nello stesso tempo non è cresciuta, non si è aperta, ecco questo è secondo me l'aspetto cruciale, non si è aperta una classe dirigente che non fosse una classe dirigente, diciamo, definiamola, familistica, fatta di reti di relazioni ristrette, fatta anche di visioni evidentemente di tipo localistico, mentre invece alle spalle c'era un'economia che guardava assolutamente al di fuori del proprio territorio. Ecco, posso aggiungere una cosa? Tu ti ricorderai benissimo un film che negli anni 60 descriveva un Veneto molto diverso, ci mancherebbe, Signore e Signori, no? In cui, girato tra l'altro a Treviso, se non ricordo male, in cui c'era tutta questa, era di Germi, vado a memoria però, di Pietro Germi, in cui c'era tutta questa società che un po' si teneva, no? Un pezzo di questo, un pezzo, parlo della parte a quel punto più notabiliare. La sensazione è stata che siamo un po' ancora lì, e cioè che un pezzo di impresa, un pezzo di risparmio, un pezzo di potentati, un pezzo di ex cognomi importanti, cioè tutto un po' si teneva, per cui quando è crollato tutto non abbiamo visto gente dire ma chi è questo, ci avete fregato. Non dico che ricordi il modello senese, perché lì entrano altri fattori, ne abbiamo già parlato forse. Ma insomma, la difficoltà ad ammettere che le banche non funzionassero, quello sì, ricorda un po' lo shock per Siena. Allora, ti chiedo, non è che il ritenere che siccome gli amministratori, funzionari, tutti erano, o di Vicenza, o di Consoli, non era di Liva, insomma, erano tutti veneti, garantiva e dava maggiore sicurezza, e in questo senso c'è stato anche un eccesso di provincialismo, cioè ritenere che comunque chi viene dal territorio sia sempre meglio di un manager che magari parla con accento napoletano, accento torinese, accento milanese, ma non è detto che non sia meglio, no? No, non credo. Sì, però non credo che sia un problema di targa, cioè di provenienza, perché appunto citavi Consoli, di Matera, quindi. Certo. No, più che l'area geografica di provenienza, diciamo così, è che si è cresciuto un network di relazioni, si direbbe oggi, che non ha lasciato spazio, appunto, da un lato a trasparenza, quindi ad apertura, e non ha lasciato spazio a meritocrazia, al mercato in senso stretto del termine, per cui le relazioni che si configuravano all'interno di questi consigli di amministrazione, di reti, che sono fatte appunto poi di relazioni con potentati locali, ecco, si sono autodifese, diciamo così, nel tempo. E alcuni pezzi ancora oggi rimangono, diciamo così, certo. Per cui si fa difficoltà ad aprire questi ambienti a figure nuove, a figure appunto anche manageriali, a rapportarsi con il mercato in modo aperto e trasparente. Bravo, Daniele, io ritengo che ci sia una forma, adesso lo dico male, di provincialismo. Perché? Perché quando gli zonini e i consoli ricordavano sempre noi in borsa non ci siamo, che quella è stata la fregatura vera per gli azionisti, poi perché fossero stati in borsa, col cavolo che potevano portare le azioni a 62 euro in maniera fittizia e arbitraria, in un caso 42 nell'altro, la borsa ti bastonava su quello. Però avevano gioco facile, perché in una certa cultura, passami in termini, lo dico da Veneto, del falso tutto mite, meglio il territorio, meglio tutto in casa, meglio così, l'idea della borsa era: se andava bene i milanesi fighetta, se andava male i grandi potentati internazionali, banche d'affari, e quindi meglio non andare in borsa. Non c'è un eccesso anche di visione miope che invece non ha avuto l'impresa veneta in questi anni, tant'è che è riuscita a portarsi su quei mercati? Cioè, vai in Cina, in Brasile, negli Stati Uniti, a Boston, con una visione mondiale e globalizzata, e poi quando ragioni della banca sembri ancora negli anni 70. Diciamo che c'è uno strabismo di fondo, no? Allora, questo strabismo in cosa consiste? Consiste, da un lato, diciamo così, nell'antropologia nordestina, veneta, sì, diciamo così, di come si può dire, di non denunciare in modo aperto le cose, no? Ma semmai, diciamo così, nei corridoi si fanno le critiche, ma mai in modo trasparente e netto. Dall'altro, e quindi in questo senso, le classi, sì, dirigenti che erano in questi luoghi non sono mai state, diciamo così, apertamente criticate, d'accordo? Dall'altro lato, che cosa si è avuto? Si è avuto che nella prassi quotidiana le imprese, e questo spiega perché c'è un PIL che cresce e le banche che vanno a catafascio, sì, le imprese cosa hanno fatto? Uno, si sono aperte i mercati e i mercati internazionali. Due, hanno evidentemente differenziato le loro fonti di credito, tra più banche, solo quelle venete, ma in giro per il mondo. Daniele, io ti ringrazio perché mi mancava appunto questo pezzo, come sempre la tua analisi molto lucida, grazie di nuovo a Daniele Marini. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24, libera la voglia di fare.